Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, martedì prossimo inizia il Festival di Sanremo che quest'anno certamente darà occasione per ricordare un tragico evento successo 50 anni fa, ossia la morte drammatica, ufficialmente archiviata come suicidio, di Luigi Tenco, che fu trovato morto nella sua stanza d'albergo nella notte tra il 26 e il 27 gennaio appunto del 1967. Quel caso sconvolse non soltanto il festival, ovviamente, un festival nel quale Luigi Tenco era stato bocciato, ma sconvolse tutta l'Italia. Tenco ormai era un autore noto, esponente di quella scuola di cantautori genovesi che stava rinnovando la musica leggera italiana, ed era certamente un protagonista importante di quel gruppo. Tenco aveva contribuito a dare una svolta alla musica leggera italiana, ancora intrisa di retorica e di romanticismo. La vicenda e il ruolo di Tenco sono illustrati dal giornalista Aldo Colonna nel libro Vita di Luigi Tenco, pubblicato da Bompiani, 320 pagine, 12 euro. Qui Colonna ripercorre la carriera del cantautore, ne sottolinea la portata fortemente innovativa, esplora le ultime ore della vita del cantautore, confermandosi tutt'altro che convinto dalla versione ufficiale del suicidio, che peraltro è stata confermata dopo la riapertura delle indagini, la riesumazione della salma avvenuta nel 2006 e da un ulteriore supplemento di indagini l'anno scorso. E il libro è accompagnato dalla discografia di Luigi Tenco, e di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera ad Aldo Colonna. Buonasera. Aldo Colonna, il suo libro inizia con due introduzioni, una prefazione e un'introduzione rispettivamente di Umberto Broccoli e Renato Salvicchi. Il primo coglie di Tenco un aspetto, il fatto che fosse un emarginato, e scrive: sta abbondantemente fuori dall'ambiente, vive ai margini del suo stesso gruppo. Il secondo, Salvicchi, invece lo giudica un antesignano, un sintomo e un inizio. Lei condivide questi due giudizi su Tenco? Condivido il secondo, quello di Salvicchi. Mi pare che quello di Salvicchi sia molto, diciamo, virgolettato, colto, molto informato. Quello di Broccoli mi pare più giornalistico, più transeunte, diciamo. Ma era veramente un emarginato, secondo lei, Tenco? Faceva di tutto per esserlo? Assolutamente no, lui cominciò ad avere amici molto presto, nella piazzetta di Via Cecchi, cominciò a suonare prestissimo con 3, 4, 5 amici, di cui Duda il Cuore, Deggi, poi Ruggero Coppola, quindi non fu assolutamente emarginato. Addirittura lui tendeva a frequentare persone un po' più grandi in età, come Coppola, come altra gente, e dalle quali lui sentiva di imparare, ma era tutt'altro che defilato, tutt'altro che emarginato. E nel gruppo dei cantautori di quegli anni, Tenco e i suoi amici, lei spiega nel suo libro, ebbero una funzione particolare, cioè cercarono di approfondire il rapporto fra cultura e canzone a partire proprio dalla loro esperienza. Come si approfondì questo rapporto? Come cambiò il rapporto tra cultura e canzoni? Ma noi dobbiamo menzionare Genova come città di mare. Come lei sa, tutte le città di mare favoriscono i meticciamenti delle culture e delle musiche. Questo fu molto importante anche con l'arrivo in porto dei famosissimi blue disc dagli Stati Uniti. Questo favorì l'appropriazione, l'apprendimento di una cultura musicale alternativa che in Italia non dico che fosse proibita, ma insomma non aveva ancora preso piede. E per ciò che riguarda invece la cultura letteraria, c'erano questi personaggi che si passavano come in un tantam un'infinità di titoli importantissimi, da Joyce a Kafka agli americani, e quindi fu proprio una specie di fucina di interazione, di interscambio, fu una cosa molto vitale, diciamo. Lei nel ricordare a un certo punto del libro, quasi alla conclusione, il premio Nobel che l'anno scorso è stato concesso a Bob Dylan, sottolinea un ruolo particolare di Tenco, cioè proprio quello di aver attribuito dignità letteraria alla canzone. Sì, direi proprio di sì, cioè lei tenga presente che le sue canzoni risentono molto delle sue letture. Qualcuno ha accennato, ha fatto riferimento a, diciamo, a interazioni con Montale, con Quasimodo, con altri grandi poeti e scrittori, e questo si sente, questo è vero praticamente, anche se questo non compare in tutte indistintamente le canzoni. Ci sono canzoni più riuscite, come lui stesso ha detto ad un'intervista a Ciotti nel 63, che cose più riuscite, più cioè cose più orecchiabili, cose più impegnate, insomma, ed impegnative. E poi svolse un ruolo importante per affermare il valore di questo tipo di cultura, di questo tipo di musica nei confronti della musica industriale, diciamo così. Lei scrive a un certo punto: Tenco rappresentò il punto di rottura con la musica industriale, con l'apertura di una stagione diversa, certo ancora piena di contraddizioni, ma viva, in un rapporto esclusivo con il pubblico. Può spiegarci questo aspetto del ruolo di Tenco? Tenco aveva la necessità urgente di far sì che la propria, chiamiamola, opera approdasse, diciamo, a platee più vaste. Da qui nasce anche il compromesso con Sanremo. Un uomo che non faceva compromessi, che non indulgeva al compromesso, poi ne fece uno grande e fatale, diciamo. Però era tutto il riferimento, atteneva tutto al discorso gramsciano dell'allargamento della cultura e quindi di approdare anche a platee che non erano propriamente, diciamo, in linea con il suo sentire, con la cultura che lo esprimeva in pratica. E quindi quello di partecipare a Sanremo da parte sua fu un sacrificio ragionato? Direi che lei ha espresso bene questa cosa, anche se lui se ne pentì prestissimo, perché capì, venne a sapere non di una combine, ma di un verminaio che regolava vincitori e vinti, vendite più o meno cospicue, comandate dalla criminalità organizzata, dalla cosiddetta massoneria, da Lucien Maurice. Lui scopre tutto questo nell'arco di 72 ore, insomma. Grazie anche ad un suo amico giornalista argentino che gli rivela, praticamente, voi ricorderete quando lui disse, molto contento, io ho in mano un Titanic, due assi e due K, con Dalida a posto, voleva dire faccio, chiudo il full e vincerò. E poi una volta che lui approda il venerdì prima della sua esibizione a Sanremo, capisce che è tutto un bluff, insomma. Veniamo alle posizioni politiche di Tenco. A un certo punto lei lo definisce più vicino al 77 che al 68. Siamo alla vigilia del 68 quando Tenco muore. Perché era più vicino al 77? Lei a un certo punto scrive lui, il 68 lui non lo anticipa, lo supera. In che senso? Ma perché lui era continuamente avanti. Cioè praticamente il suo 68 come fosse un proprio Vietnam, ma lui lo viveva negli anni che ha vissuto, lo ha anticipato certo, e se l'avesse vissuto sarebbe stato uno dei capi, forse uno dei riferimenti obbligati, però lui è andato oltre praticamente, era andato oltre al discorso dell'aborto, dell'accettazione della diversità sessuale, della politica tout court. Lui era un... si definiva un comunista. Io ho avuto, sono andato sulle tracce di questa famosa tessera di iscrizione al PC, che esiste sicuramente, ma insomma non mi è stato permesso di tirarla fuori perché avrebbe caratterizzato troppo questo personaggio ingombrante, soprattutto per l'età, per l'epoca, diciamo. E quindi in questo senso, essendo un apripista, un precursore, lui era già proiettato in tutti i sensi altrove. Mentre era sicura la tessera del PSI che ebbe dopo? Sì, però io ho saputo da amici, da conoscenti, che fu un'iscrizione torto collo, insomma, cioè, voglio dire, era più, se vogliamo parlare di socialismo, era sicuramente un socialismo alla De Martino, ecco, non alla Craxi. Però lui era, fino alla fine fu un comunista e direi anche anarchico. Infatti lei lo definisce un anarchico senza chiese, è bello questo. Sì, infatti. Non aveva dogmi quindi? In questo senso assolutamente no, lui chiaramente viveva delle contraddizioni patenti, questo è evidente. Quando noi abbiamo parlato poc'anzi dei compromessi, lui era un uomo veramente, tutto un pezzo, poi al compromesso cede. Quando lui incontra Dalida e viene travolto da una passione erotica, lo fa nel momento stesso in cui ama un'altra donna che vorrebbe sposare, dalla quale aspettava un figlio, che poi questo figlio fu perso in un incidente stradale, diciamo. Quindi le contraddizioni sono plurime, insomma. Sentiamo questa canzone, anzi sentiamo la canzone, sì, possiamo dire forse per antonomasia, di Luigi Tenco. Ciao! Ecco, lei definisce questa, che fu la canzone appunto di quella edizione di Sanremo, il testo più elaborato e più rimestato di Tenco, e anche lo difende da certe critiche che ebbe, lo definisce come un testo anticipatore di temi tuttora attuali dibattuti come l'emigrazione, l'inurbamento, l'alienazione. Dunque, per me e per molti, la canzone rimane una gran bella canzone. Il testo fu rimestato perché lui voleva fare di questa canzone una specie di inizio di strada italiana al folk, praticamente. Però inizialmente parlava, rivedeva un po' la spigolatrice di Sapri, quindi erano 100, erano forti e sono morti. E obiettivamente non era una canzone per Sanremo, anche se lui si batté ferocemente perché rimanesse tale. Alla fine uscì fuori questa canzone che ricorda appunto il tema dell'immigrazione, che è tuttora attuale, però c'è una piccola cosa, uno sberleffo che lui fece, questo l'ho saputo da amici, al pubblico borghese pagante dell'Ariston. Volevano a tutti i costi che ci fosse un ritornello. Ritornello e ciao amore ciao. Ecco, questo ritornello è preso pari pari dall'inno della DDR. Questo l'ho appreso da un collega tedesco che voleva fare un pezzo su Tenco, mi portò addirittura allo spartito ed è uguale in pratica. Fermo restando che è uguale anche in alcuni dei contenuti dell'inno della DDR, perché si parla appunto di grano, di raccolta di grano, di campi da arare. Lei non si è rassegnato alla tesi ufficiale del suicidio, lo dimostra anche in questo libro. Io sono convintissimo che è stato ucciso, ma sono convinto non tanto per una suggestione, quanto perché sto lavorando ad un altro libro, non so quando uscirà, scientifico, sulla base di perizie medico-legali, tossicologiche, balistiche, eccetera, che dimostrano già che le mani di Tenco non hanno sparato quella notte. E quando noi, insieme all'amico Buttazzi e Pomati, abbiamo fatto riesumare il corpo nel 2006, anche lì fu fatto un pastrocchio, nel senso che non so se posso annoiarla con dei dati scientifici, ma insomma una mano che spara, sia essa in azione omicidiaria che suicidaria, deve riportare sul dorso della stessa le cosiddette particelle trimetalliche, antimonio, bario e piombo, e lui aveva soltanto due particelle di antimonio, che sono le stesse, nel caso specifico, nascevano dalla saldatura della cassa in zinco, che era posta dentro la cassa poi di legno, ma che sono comuni a tutti i fumatori, ad esempio. Quando chi fuma accende una sigaretta con l'accendino, automaticamente sul dorso della mano si depositano queste particelle. E questa è soltanto una parte della verità, poi le cose sono molto più complesse. Per noi resta un mito musicale. Assolutamente sì. Una cosa che mi ha fatto molto piacere: le Poste italiane emettono un francobollo da 95 centesimi, questa è una grande cosa. Si dà, ammesso e non concesso che ce ne fosse stato bisogno, voglio dire, questo definisce la grandezza dell'uomo e dell'autore. Bene, grazie ad Aldo Colonna, autore di Vita di Luigi Tenco. Buona serata. Grazie. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. A proposito di Tenco, abbiamo parlato di rivoluzione nel campo delle canzoni, di rivoluzione nel campo della musica, di poesia, e quindi parliamo di un'altra rivoluzione che ha a che fare proprio anche con la lingua, con i versi, ed è una rivoluzione permanente di cui siamo protagonisti noi stessi, non con quello che facciamo, ma piuttosto con quello che diciamo. È la rivoluzione dell'italiano, della lingua italiana, sulle sorti della quale si sprecano sempre lamentele e nostalgie. Naturalmente i maggiori lai, i più forti lai, si levano contro la corruzione della lingua che viene dall'invasione dei termini inglesi. E proprio su questo interviene Gabriele Valle, che è un insegnante italo-peruviano, che ha scritto Italiano Urgente, 500 anglicismi tradotti in italiano sul modello dello spagnolo, pubblicato da Reverdito, 464 pagine, 18 euro. E questa è una sorta di dizionario ristretto, sono solo 500 termini, appunto, che si riferiscono a parole o espressioni diventate spesso di uso comune e al modo in cui gli stessi termini possono essere tradotti in italiano, facendo riferimento appunto al trattamento in spagnolo, l'origine, la lingua d'origine dello scrittore. E Tullio De Mauro, che ci ha lasciato proprio poche settimane fa, spiega il senso del parallelo con lo spagnolo scrivendo che l'accostamento delle due lingue, la proposta dello spagnolo come possibile modello, non sono basate solo sull'esperienza soggettiva di Valle, ma anche su un dato linguistico oggettivo. Infatti il castigliano, cioè lo spagnolo da un lato, e dall'altro i dialetti toscani centro-settentrionali, e quindi il fiorentino e l'italiano, sono gli idiomi romanzi che meno si sono allontanati dalla matrice latina e romanza, e che di conseguenza sono segnati da una minore distanza di linguistica fra di loro. E gli ispanofoni ci possono dare buoni esempi per reagire allo tsunami anglicizzante che mette a rischio l'italiano. Per esempio, perché ci ostiniamo a usare l'espressione Jobs Act, cioè la legge di riforma sul lavoro? È una domanda che incuriosisce Valle. Dal 2014 in Italia alcuni giornalisti e politici chiamano Jobs Act la riforma del lavoro progettata dal governo. Non occorre dire che la denominazione è superflua. Occorrerebbe piuttosto sentire il parere di uno psicologo, il quale troverebbe sintomatico che, come le fiamme tra le stoppie, si sia sparsa con nome inglese una legge fatta in Italia, espressa in italiano e rivolta ovviamente alla nazione italiana. Forse qualcuno suppone che sia di buon augurio attuare una riforma sotto standard anglo-americano, come se il nome in sé fosse provvidenziale, come se esso aiutasse a conquistare la vittoria sul male che il programma intende affrontare. Può darsi che abbia ragione. Nel qual caso, una riforma sulla sanità dovrebbe presentarsi sotto l'etichetta di Public Health. E della diffusione degli anglicismi parla anche la massima autorità in fatto di lingua, il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, linguista principe e autore di Lezione di Italiano, grammatica, storia, buon uso, pubblicato da Mondadori, 224 pagine, 18,50 euro. Lo scambio tra le varie lingue è fenomeno antico e anche l'italiano ha esportato molti termini e locuzioni, ma oggi le reazioni al fenomeno si fanno più forti e i rimedi sono possibili, dice l'autore, a partire da una condotta linguistica consapevole anche magari da parte delle autorità. Per esempio scrive l'autore: chi ci governa non sa più pensare le sue azioni se non in anglo-americano, in qualche gabinetto riservato di Palazzo Chigi e diramazioni deve essersi annidato un suggeritore specializzato in deragliamento linguistico. Ma il libro non parla, come vi dicevo, solo di questo, e con un linguaggio accessibile a tutti ci invita a riflettere sulla storia dell'italiano, sulle sue regole, cioè la grammatica, e ci sono anche dei dubbi che potremo risolvere, e sulla sua applicazione. Il libro è diviso in due parti, 10 dialoghi col lettore, 10 inviti ai piaceri della lettura e della grammatica. Per concludere, scherzosamente immagino, con un pianto. Il pianto per la notizia dei 181 errori, tra cui molti di punteggiatura e alcuni lessicali, riscontrati in un decreto legislativo di 220 articoli emanato dal nostro governo nell'aprile 2016 e segnalati poi con un avviso di rettifica del governo stesso qualche mese dopo, senza che sia stato rivelato e sanzionato il responsabile di tanta sciatteria in un testo normativo dello Stato. Un altro linguista che scrive anche su giornali e collabora con la radio, Giuseppe Antonelli, che ha pubblicato Un italiano vero, la lingua in cui viviamo. Questo è pubblicato da Rizzoli, 202 pagine, 18 euro. L'italiano perfetto, scrive Antonelli, non esiste e non è mai esistito. L'italiano continua a cambiare. cambia il nostro modo di usarlo, perché cambia il modo in cui lo usiamo. Ma conoscere, studiare, usare meglio la nostra lingua resta una forma tutt'altro che banale di rispetto per l'ambiente. L'italiano è ormai un patrimonio comune, i dialetti in molte parti d'Italia non si parlano più, ma osserva Antonelli, si distacca sempre di più l'italiano appunto dal modello tradizionale. Nel linguaggio scritto poi è un'autentica rivoluzione. Allora il libro cerca di spiegare come la lingua si evolva e quali siano i rischi ai quali essa va incontro, con molti esempi, che senza prosopopea ci fanno aprire gli occhi su molte disinvolture nelle quali cadiamo tutti. Ma perché occuparci dell'evoluzione o involuzione della lingua? Ce lo spiega appunto l'autore. La nostra lingua ci nutre, educa i nostri pensieri, i nostri sentimenti, plasma la nostra visione del mondo. Questa è la lingua. La lingua siamo noi. E naturalmente l'utilizzo di nuovi strumenti come Twitter o Facebook aumenta le pressioni sulla lingua. E infatti l'autore osserva che quello telematico è senza dubbio l'italiano del futuro. Non un italiano perfetto, per carità, ma almeno un italiano, un italiano vero. E per i nostalgici della lingua segnalo Il Dimenticatoio, dizionario delle parole perdute, pubblicato da Franco Cesati, 216 pagine, 16 euro. Anche questo è un dizionario redatto dalle redattrici dell'editore, appunto, che hanno messo da parte, per così dire, le parole uscite di circolazione, alcune segnalate da visitatori del Salone del Libro di Torino. Un dizionario di circa 2000 parole da abbacinare a Zoilo, naturalmente spiegati, in certi casi illustrate, richiamate anche dai testi letterari. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di italiano e quindi vi segnalo un grande scrittore per ragazzi, Roberto Piumini, che ha scritto Folo il centauro, pubblicato da Einaudi Ragazzi, 248 pagine, 18 euro. Questo è un libro ambientato nella mitologia greca che ci presenta eroi e avventure capaci di suscitare emozioni insolite. E a proposito di grandi libri per ragazzi, vi ricordo che domenica prossima si concludono a Milano le rappresentazioni dello spettacolo Pinocchio in scena al Piccolo Teatro, che è una trasposizione non certo per bambini del capolavoro di Collodi presentato dal regista Antonio Latella. A chi voglia riaccostarsi al testo segnalo una nuova edizione di Pinocchio pubblicata da Giunti, che è l'erede del primo editore del libro di Collodi. Questa edizione in grande formato, 304 pagine, 49 euro, ha la particolarità di essere arricchita con le illustrazioni finora inedite di Fabio Mauro e Enrico Krasnick, che nel 1940 avevano preparato un'edizione di Pinocchio in concomitanza al film che Walt Disney aveva realizzato in quei mesi, ma che non arrivò in Italia, contemporaneamente agli Stati Uniti, per l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. E qui troviamo il testo, naturalmente, del libro e la storia di quella vicenda raccontata da Gianni Bono, con le tavole che vedono finalmente la luce. E mentre sulla Tella, che è il regista dello spettacolo al piccolo, vi segnalo La misura dell'errore, vita e teatro di Antonio Latella, curato da Antonio Tirelli, è pubblicato da Caracò, 96 pagine, 7 euro, ed è un'intervista diario al regista che da quest'anno dirigerà la sezione teatro della Biennale di Venezia. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.